God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. And it was good. And God divided the light from the darkness. Three men to represent the culmination of a dream and the beginning of a new concept of reality. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. Consentitemi di dire che l'ha vinta con grande coraggio. La prima quasi contro tutto e quasi contro tutti. Perché? Perché l'ha vinta contro la gran parte della stampa. Parte dell'informazione radio e televisiva, ma avuta anche contro molti che gli consigliavano in amicizia. Here is a story told to the children. Stiamo dicendo sciocchezze, non io. Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Quasi contro tutto e quasi contro tutto. Perché la vita contro tutto.